Speciale rugby test match. Appuntamento del sabato con i test match di rugby. Sentiamo com'è andata per l'Italia. Senza storia e senza gloria, a parte la meta di Tommaso Boni in contropiede quando il match era abbondantemente compromesso. L'Italia cede 68-10 a una Nuova Zelanda superiore in tutto, a lungo unica squadra in campo. E dire che questi erano in gran parte i rincalzi del team campione del mondo. Ma il dominio è stato totale e il tabellino lo dimostra. Alla doppietta di Malakai Fekitoa, gli All Blacks hanno aggiunto 8 mete con 8 giocatori diversi, di tutti i reparti, in velocità oppure di potenza, con azioni corali o con spunti individuali di gran classe, come quello messo in scena dal tre quarti ala Israel Dead. Un olimpico da pienone stregato dalla H neozelandese ha ammirato lo show degli uomini in nero e ha comunque continuato a sostenere un'Italia che ha davvero molto da lavorare. Giacomo Bagnasco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Speciale rugby test match. In collaborazione con... Entra in Cariparma, scopri Crédit Agricole. Nuova meta, stessa passione.